ma un'improvvisa idea mi costringe a interrompere questa specie di racconto, lascerando quello stile senza stile che è lo stile dei documentari e degli appunti. L'idea è questa: far cantare anziché far recitare l'Orestiade. Farla cantare, per la precisione, nello stile del jazz. E in altre parole, scegliere dunque come cantanti e attori dei negri americani. Questo non sarà poi senza significato, perché se dei cantanti attori negri dell'America si prestano a girare in Africa un film sulla rinascita africana, evidentemente questo non può presentarsi senza un preciso significato. È ben chiaro infatti a tutti che i 20 milioni di sottoproletari negri dell'America sono i leaders di qualsiasi movimento rivoluzionario del terzo mondo. Ci troviamo in uno studio semiclandestino di una vecchia città dell'Occidente e qui prendiamo il primo punto per questo nostro nuovo progetto. La scena scelta da questo punto è la grande scena di Cassandra all'inizio della tragedia. Coloro che parlano sono Cassandra e il coro. La situazione è questa. Agamennone, portando con sé la schiava Cassandra, è appena ritornato, stanco, sfiduciato. Ne ha viste troppe per credere ancora negli onori. E la città infatti lo accoglie tristemente, perché non c'è cittadino che non conosca la nuova realtà che lo aspetta. Sua moglie Clitennestra, che ha già preparato la sua morte, lo fa entrare nella reggia, facendolo camminare sopra di tappeti preziosi. Così il marito e la moglie entrano dentro la reggia e scompaiono alla vista. È a questo punto che Cassandra ha la visione dell'assassinio che si compie al di là del muro. you if you sing this bitter song. You are like the nightingale that desperately sings the sailors without peace. Always like this heart that sings of life, filled only with me. Facciamo ritorno in Africa. Ecco un appunto per la morte violenta che la visionaria Cassandra ha profetizzato. Ma io qui non ho parole per commentare. di terra smossa e fresca, forma rettangolare, con agli angoli dei ciuffi d'erba, è una tomba che ho trovato vicino alla capanna. Una tomba così potrebbe essere la tomba di Agamennone nel mio film sull'Orestiade africana. Ho pregato coloro che vivono nella capanna accanto a questa tomba, un padre e una figlia, di ripetere gli stessi gesti e dire le stesse parole che si usano quando vanno a portare appunto offerte a pregare sulla tomba del loro congiunto. Ed essi diligentemente mi hanno assecondato. E questo è dunque un appunto su quello che potrebbe essere l'arrivo di Elettra a pregare sulla tomba del padre. Releggiamo i versi di Eschilo. Dio dell'inferno, re dei vivi e dei morti, fa che ascoltino questa mia preghiera gli spiriti che stanno sottoterra, testimoni terribili dell'assassinio di mio padre, della terra stessa, madre di tutti noi, che ci ha nutriti e in sé ci raccoglie a germinare nuove vite, mentre versando quest'acqua sacra ai morti, io prego mio padre. Padre, pietà di me e di tuo figlio Oreste, fa che torniamo padroni della nostra casa. Ora non siamo che due diseredati senza speranza. Così ci ha ridotti la stessa nostra madre che ha sposato Egisto, complice del suo omicidio. Io sono viva e schiava, Oreste vivo in esilio. E quei due trionfano, ricchi della tua ricchezza. Che un caso divino riconduca qui Oreste. Questo ti chiedo, dammi ascolto, padre. Ed ecco un appunto diverso dagli altri. Infatti ho girato la scena come se fosse la scena reale del mio film. Oreste che arriva sulla tomba del padre. Dio, Dio, guarda qua giù la nostra miseria. Ecco, i figli dell'aquila sono senza padre. È morto tra le spire di una serpe impura. È impietosa la fame e spaura questi orfani, perché quasi in plumi non sono ancora capaci di portare al nido la preda del padre. Una stessa sorte per me e per lei, Elettra. Guardaci, orfani, al bando della nostra casa. Se tu farai perire la specie dell'aquila, non potrai mandar più segni dal cielo e questa razza reale, questa radice inaridita di grandezza, non potrà più empire il tuo altare. Salvaci, tu puoi rifare grande questa casa, che ora non è altro che una grande rovina. Oreste si prepara dunque a vendicare il padre e a uccidere la madre con le proprie mani, ma non appena avrà ucciso la madre, ecco l'apparizione delle furie che lo costringono a fuggire dalla sua patria. Egli se ne va e le furie lo inseguono, cantando il loro canto ancestrale di terrore e di rimorso. Brancola, il male non ha rimedio. Ma ecco il dio protettore di Oreste, Apollo, che gli parla. Fuggi, non stancarti mai. Esse cercano te nell'immenso mondo, ti inseguono in tutti i luoghi dove vai, anche oltre il mare, anche nelle città circondate dall'acqua. Ma non stancarti mai di patire la pena che devi patire prima di aver raggiunto il paese di Atena. L'Oreste se ne va lungo le strade del mondo, perseguitato, atterrito, eppure deciso a giungere alla sua purificazione. Questa è Kampala, la capitale dell'Uganda, che potrebbe rappresentare l'antica, moderna città di Atene. Ora Oreste è di fronte al Tempio di Apollo. Come rappresenterò metaforicamente nel mio film sull'Orestiade africana il Tempio di Apollo? Lo rappresenterò con una università. Per essere precisi, l'Università di Dar es Salaam, che, vista da lontano, subito, mostra inconfondibili segni di assomigliare alle tipiche università anglosassoni neocapitalistiche. Thank you.